Attenzione, attenzione, ladies and gentlemen, perché è arrivato il settimo, anzi l'ottavo re di Roma, accompagnato dalla grande voce di Mr. Simon Beta. Voglio un urlo libero di benvenuto per Vortex DJ! Simo, il microfono nelle tue mani, ci vediamo dopo. Allora, innanzitutto volevo ringraziare Paolo Marocco che ha suonato per voi prima. E un grande applauso, un grande abbraccio anche per Jay Mass, un grande amico, un grande artista, un tuo grande fratello. Ne approfitto per presentare il 15 di dicembre l'evento Censored al Dog Pound. Saranno con noi come speciali ospiti Jimmy The Sound e Mad Bob, insieme ad Airteo, Noise Generators, Delfromed, alle voci Super Doggy, Morgan & Tay e Darko MC. Simone, ti amo da Martina. È il primo re di Roma. È l'unico incontrastato re di Roma. Direttamente dai più grandi rave europei e dalla Stick Record. È con noi questa notte DJ Vortex, pilotati da Simon Beta, la voce del divertimento universale. E ci scaldiamo piano piano, Pigalle. Sulle mani! Chi c'è, chi c'è? C'è Vortice! Chi c'è, chi c'è, chi c'è? C'è Vortice! Chi c'è, chi c'è, chi c'è? I'm a motherfucking raver with the hard style flavor. I'm a motherfucking raver with the hard style flavor. I'm a motherfucking raver with the hard style flavor. I'm a motherfucking raver with the hard style flavor. I'm a motherfucking raver with the hard style flavor. I'm a motherfucking. Benvenuti Pigalle in questa notte magica. Ciao Dorio. Tanti auguri Martina, happy birthday to you, 18 anni! Con le mani a tempo, con le mani a tempo, con le mani, con le mani, con le mani a tempo, con le mani a tempo, con le mani a tempo, con le mani, con le mani, con le mani a tempo! Uno speciale saluto agli amici di Alba, ciao Angelino! Kick back for a second. Sulle mani, fratelli. Questo è lo spirito della notte. Diamo il benvenuto con le nostre mani al cielo alla coppia della notte, DJ Vortex e Simon Beta. E cominciamo per cortesia a batterle a tempo, le mani a tempo di DJ Vortex. Ehi, ehi, ehi, ehi. Morgan! Comprato il tuo biglietto, staccata la matrice, segui me e tuffiamoci nel vortice questa notte insieme alla cometa. Il suono della notte, DJ Vortex e Simon Beta. Musica! That's what we fuck, man. Prova a toccare il cielo con un dito e vedrai Simon Bete impazzito. Musica, amore, gioia e libertà. Il Nuovo Testamento universale. C'è nessuno che salta con Vortex. Saltellare, saltellare, energia. Saltellare, saltellare, energia. Samuele, sei un samurai. C'è un vortice che gira e gira, gira, gira. C'è un vortice che suona e suona, suona, suona. Vortice. Da quando la maggior parte di noi andava ancora all'asilo, ragazzi. È veramente un pezzo di storia stanotte qui al Pigal, davanti a voi in questa notte magica, direttamente dalla Stick Record, DJ Vortex. Sulle mani, ragazzi! Questa è la sua musica, la nostra libertà! Pierre e Rebecca, la nuova coppia, sempre insieme. Ci vogliono le mani per scaldare i cuori dei due capitani. Chi non batte le mani con noi se ne va in galera. Sulle mani, ragazzi! Noi siamo le lacrime degli angeli, ragazzi. La tua storia, la nostra vita, scivolare tra le sue dita. L'impero della musica è giunto in mezzo a voi, carico di leggende, di favole, di eroi. Tra canti celestiali e melodie di Newton arriva Simon Beta che ti dà il benvenuto. Tu come stai? Ti ho detto ma. Tu come stai? Ti ho detto ma. Se stai come me ti scappa da ridere. Pianeta rimorso. Saluto gli amici di Torino. 100% reines kolumbianisches Koks, ladies and gentlemen, disco stuff. Torino balla, Torino canta. Das ist erstklassiges 100% reines kolumbianisches Koks, ladies and gentlemen. Disco stuff. Super Doggy! Valesteo e Roger Lieni, sulle mani insieme! Das ist erstklassiges 100% reines kolumbianisches Koks, Ladies and Gentlemen, Disco-Stoff. Insieme, oh oh! Ah! Più forte, ragazzi, qui in console, vi sentiamo insieme! Oh oh! Musica! La gioia, l'impulso, l'energia che sento è un'onda che va sulla scia del tempo, vivendo nell'eterno, ai limiti del giorno, è un viaggio solo andata, senza più ritorno. Das ist erstklassiges 100% reines kolumbianisches Koks, Ladies and Gentlemen, Disco-Stoff. E la notte non finisce. Siamo appena all'inizio. Queste sono grandi sensazioni. Trovarsi qui insieme con voi ad Aosta, insieme a tutti i miei amici, insieme a Vortex, insieme a JDM, insieme a Rap & Joy, insieme a Super Dodi, Morgan & Ty, e insieme al grande amico J-Mass, per una vita a tutto gas. Das ist erstklassiges 100% reines kolumbianisches Koks, Ladies and Gentlemen, Disco-Stoff. Io sono un tecno folle, sono schiavo della musica, io sono una cometa, il mio nome! Io sono un tecno folle, sono schiavo della musica, io sono una cometa, il mio nome! Siete grandi ragazzi, siete numeri uno in tutta Italia! Non vi sento! Attenzione, la marcia in botta, la marcia in botta! Stefano Giovena, Elena Montovito! Speciale disco dedico al cuore di Marco Vortex, a Dado e Gio! Insieme! Bo bo bo bo bo bo. Sara, ti voglio bene da Teo. Insieme ragazzi, non vi sento! Cristina da Trana! Allora ragazzi, stasera abbiamo portato un po' di CD per voi. Questo lo regalo a chi fa l'urlo più forte! e ce n'ho ancora tanti altri. L'importante è mantenere viva la nostra carica energetica di questa sera. Ragazzi, se non ve ne siete accorti, in console c'è il DJ numero uno d'Italia per l'hardstyle, Marco Vortex! Grande persona, grande amico, vai Ema! Auguri anche a Fabri di Trano e Cristina Giavena per i loro 2 anni e 3 mesi insieme. Che bello, qui al Pigalle si formano anche le coppie. Ragazzi, in console per voi DJ Vortex e Simon Beta, urlo libero! Giuseppe. It's a shout out to all the crowds around. Keep your head up, don't let them put you down. Time to stand up, that's what it's all about. You might as one now and make it fucking loud. Samantha, ti amo da Ale. Alpo, Alessandro e Lorenzo Carasco, ciao. Mi sto strozzando anche col microfono, non so più dov'è il filo dei miei pensieri. Angeli, lasciati trasportare sulla scia dell'onda musicale. Allora, come succedeva tanto tempo fa, voglio vedere gli accendini accesi verso l'alto. Va bene anche il telefono, però voglio vedere un cielo stellato in pista. Tanti accendini, una sola fiamma, come i grandi concerti rock durante una canzone d'amore. Ah! Lassure che si amano sempre niente sotto la console. Jay! Exclusive live in Pigalle tonight. Questa è la sua musica, ragazzi. Uno speciale saluto di DJ Explosive dallo staff Explosive. Io so come la belva accettata di censura che vive che si nutre della tua paura. Per me che sono eletto, protegge la natura. Due anime nel cuore, una bianca, una scura. Il lato positivo della medaglia, la faccia oscura della medaglia. La verità e la menzogna, due facce opposte della stessa medaglia. La musica e la voce, DJ Vortex e Simon Beta. A questo punto ossa, chi vuole un urlo? Di più! Di più! Con le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani. Questa è l'energia che ti fa volare via. Nella notte, impossibile! Inseguirti in cielo oppure in fondo al mare, ovunque ti nascondi ti saprò trovare. Sarò il tuo chiodo fisso, un uragano di terrore. Sarò il tuo dubbio atroce, il tuo incubo peggiore. Ciao figlio di Lenin! Aosta contro Roma. Uno speciale saluto Samuele e gli amici La Spezia, i Betamaniaci, benvenuti, sempre presenti. Hey loco, first I fucked your mama, now I'm smoking your mota, eh? I wanna puff puff, some of the Dutch stuff, I wanna puff puff, give me the green green stuff, I wanna puff puff, some of the Dutch stuff, I wanna puff puff, give me the... Urlo libero! Simon Beta è il migliore! Grazie. Cristina Fabrizio ti ama. Numero uno per numeri uno. I came all the way from Mexico to fuck your mama. Tuvin Console, grazie urgentemente, Tuvin Console. Le mani a tempo per DJ Vortex, ragazzi, dai, dai, dai, dai, dai. Perché Franchino c'ha le sue favole e Simon Bente i suoi viaggi. Saluto ad Asti e Savona, la coppia padrona! Sei il numero uno, quanto tempo cazzo? Sei mass, una vita tutto gas. Insieme! Abbassa lo slider Vortex e sentiamo come cantano i ragazzi. Abbassa un po' lo slider, sentiamo come cantano i ragazzi insieme, dai! Popo! C'è un vortice che gira e gira, gira, gira. C'è un vortice che suona, vortice. C'è un vortice che gira e gira, gira, gira. C'è un vortice che suona, vortice. Un altro CD. Questo lo regalo a chi fa il fischio più forte. La notte dal giorno, due cose inscindibili. Guarda, ti attacchi a tutto. Questa è la nostra notte, questa è la tua notte, noi siamo come il fulmine che squarcia il cielo in due. E questo si canta dalle parti mie, sulle mani tutti insieme ragazzi! DJ Vortex e Simon Beta! orizzonti da scoprire, pianeti da abitare, nascere nel sole e tante cose da imparare, ricercare le stelle nel chiarore del mattino, scoprirne l'universo, chi ci sta vicino. Hai mai sognato di rinascere nell'universo, Le Pigalle? Di assaggiare quella polvere di stelle di cui tutti parlano e nessuno ha visto mai? Bene, oggi con la nostra esplosiva sensazione musicale potremo rinascere nell'agglomerato celeste e tuffarci nell'universo come spirito liberi. Dedicato agli amici del laghetto maledetto. Vortice! Uno speciale saluto ai geometri di Panorama. Ti amo la tecnofollia, quattro mezzi sotto shock, tua bimbola. Si ricomincia! E questa è una dedica speciale a Vortex. Però mi sa che lui è della Lazio. Ancora di più, ancora più su! Vai, vai. E mi sembra doveroso, perché questo disco per noi ha un gran significato. Da parte di Bea e Fra e tutti i suoi amici che lo tenevano tanto al cuore come me, Ale Ferriera dedicato a te sempre nei nostri cuori! Bravo Doggy. Vogliamo fare uno speciale ricordo, ragazzi, per Ferriera, che non c'è più, che ci guarda dall'alto, ma stanotte qui con noi, che balla e si diverte come noi piace ricordarlo una volta. Ragazzi, un grande applauso a chi non c'è più, a Ferriera, ragazzi, un grande applauso, uno di noi. Curma, vi voglio bene da Martolì. Andiamo avanti! Dedicato a Marco, Dani, Yuri, Sean e Joe. Roma, uno degli artisti più importanti di tutta Europa, suona per voi questa notte DJ Vortex. Facciamogli un grande applauso insieme. Siamo angeli, siamo angeli. Siamo angeli. L'unico grande angelo, direttamente da Roma Capitale, sulle mani, Vortex DJ! sono il re sole e amo l'eccesso. Alla mia corte tutto è permesso. Musica, musica, musica, musica, musica, musica, musica! Grande Mickey Joint, un fratello dell'hardstyle! Carlaccio Michele Lenin! Io sono un tecno folle, sono schiavo della musica, io sono una cometa, il mio nome! Io sono un tecno folle, sono schiavo della musica, io sono una cometa, il mio nome! Aosta, siete veramente troppo avanti! Non mi stancherò mai di dirlo, è una delle piazze più belle dove suono più volentieri, in mezzo ai miei fratelli di Aosta! E questo disco ci fa andare avanti nella scala della musica di questa notte. E un benvenuto anche agli amici di Torino! Ale, ti amo! Forza Lazio! Di già. Samuele, sei un samurai. Ok ragazzi, un grande applauso DJ Vortex. Quello che state per sentire sarà l'ultimo disco del suo specialissimo set per questa notte. Ha suonato per voi il re di Roma. E questa è anche l'ultima produzione di DJ Vortex. È un disco che ci aspettiamo che scali immediatamente le classifiche nel panorama hardstyle internazionale, soprattutto in Europa e in Olanda, dove Marco è un gradito ospite. Vi ricordo ancora una volta, il 15 di dicembre, Jimmy the Sound, Mad Bob, Airteo, i Noise Generators, Del Promet, Doggy e Morgan in Tai e Dark MC. La serata si svolgerà al Dog Pound, organizzata dal Censor e The Staff. Ragazzi, siete tutti invitati, vi preghiamo di non mancare. Alla mia fatina Valeria un bacio, pepe! Nelle mani ho l'orgoglio. Come? Sì, vai. Audio check one. Sì. Sulle mani tutti quanti ragazzi! Questo è il modo di salutare di DJ Vortex e Simon Beta per questa notte! E tra pochissimo vi presenterò il cambio della console. Due grandi artisti e uno in particolare un grande amico, un fratello direi. nelle mani ho l'orgoglio e nel cuor porto letizia di vita, gioia, amor e guardiana di bellezza, vive ancora nei miei sogni, mi la puoi trovare tuttora irraggiungibile per tutti, per mille anni ancora. E con questo disco DJ Vortex e Simon Beta vi salutano, vi lascio nelle sapienti mani e giradischi uno degli artisti più importanti d'Europa, il grande Zatox, e sarete pilotati dalla voce del mio fratello J Massa a tutto gas. Ciao ragazzi, da Simon Beta, a presto! You fucking whore. Let's do it. Pigal Censured, la terza dimensione del suono, Vortex DJ Simon Beta. E gira, gira, gira, c'è un vortice che suona, vortice, c'è un vortice che gira, e gira, gira, gira, c'è un vortice che suona, vortice! Un ultimo grande applauso a Vortex DJ! Così lo salutiamo, il grande Vortex, la grande voce di Simon Beta, la Spezia City.